Attento, signor Bacchisio. Paola. Attenzione, signor Bacchisio. Sabati, ma tu sei? Sei basso, basso. Quasi manco d'accordo. Basso, basso, basso proprio. Quasi a zero. Paolo, sono d'Italia. Sì, va a sapere. Cucu, cucu. Sì, asa che cucu è, signor Bacchi. E aspetta che andiamo bene. Come mi accoppi, come mi accoppi, dottore? Sì, adesso bene, è più alta adesso. Io sento... Ma la ventola accesa c'è. Si è scarica, tu non lo so. E se sono da quente ben accesa perché c'è caldo. Nulla, sta sempre bloccato lì a 9.40. Colpa mia, aspetta che ho sbagliato il cavo. Adesso ha cambiato musica. Signor Bacchi, cosa gli ha attaccato? Ho cercato il cavo, l'occasione dei cavi, poco fa stavo aggiungendo il cavo. Mi ha giocato un cazzotto, devo cercarli, io non ho uno, va a indovinare. C'è andato, dove c'è andato? Perché il deviatore è a due, mi rompe, devo staccare, poi ci metto con l'altro, lo rifaccio perché mi ha bruciato tutti i cosi, le resistenze, una scarica. Ah, quello che hai costruito tu, l'hai tolto? E ne ho tolto quello perché una scarica mi ha bruciato tutte le resistenze. Le resistenze le ha cotte e metto dice, ah solo queste dice, resistono un bene, cosa resiste? Dai cose, da roba con la Ianna. No, ma sicuramente deve essere molto forte le scosse allora. E boh, non lo so. E adesso come sto andando male o bene? Oh, stai uscendo bene, sei 9.40 e stai uscendo bene. E ma sono seduto però. Anche io sono seduto. Eia. E dottor Marino? Boh, non l'ho sentito per niente oggi. Vabbè che l'ho acceso poco fa, poi stamattina stavo parlando con Gio Maria. Ho avuto a vedere, a provare il PMR, ho provato con quello portatile e c'aveva tutto a posto. Allora, benissimo. Marino l'ho visto stasera, è venuto in campagna perché devo prestargli una pompa per tirare acqua dalla posta scetica. È venuto, ci sentiamo più tardi. Grazie a Dio, dove c'è ancora pompa in deva. Vuol dire che non beva, no, da lampa. Oppure sto facendo la vecchia del mercante. Non lo so, Bacchi. Quello del ragazzo lì sto marcando un po' male. Male. Si dice una cosa e le fa un'altra. A finire, lo vediamo a lenta noi. Quando bussa la porta è chiusa. Infatti è così. E così è. Quella farfalla di ginco, sentito voi? No, non l'ho sentito per niente oggi. Nulla che nulla. Doveva venire a trovarmi, devo dare un'antenna, e non è giunto. Si crede che quando io posso vestire giù a casa tua oppure in campagna? No, qua in garage ho portato, cioè in garage. Per le PMR, l'antennino per le PMR. Sicuramente sarà andato Alghero, sarà andato. Il compagno di uno straniero. No, Alghero dalla sorella. E allora lì ha fatto carica. Non lo so. Non faccio nulla. Mi ha caricato e dunque non ci ha fatto fare il ritorno. Sarà così, sarà boh. Dorme in spiaggia, stanotte in chiesa. Fai sbaglio e tu? Questo mi si vede a costretta, che vuol dire che avessi l'elefante, mi. Avessi l'elefante, non si sente. Ginko, ci sei? Gilcana? Nulla. Marino sta pompando acqua, Tito prende gli affari domestici. ritardi quando da Cacciocca. Ma chi? Di quelle KMVDTS 2000, di quello ne ho trovato uno su internet, 650 euro. L'ho acquistato anch'io quello lì. 650. Più 13 di trasporto. 13 di trasporto. Che è così. Però bisogna vedere a cattura giarra da momenti. Questo è, questo è più importante, a chi non chiese non racconta, vedi quanti tasti vi so, bisogna sento tasti. Lo so, ce ne sono parecchi di quello. Qual è tribanda è? Quadribanda, quattro bande, quattro antenne c'è addirittura. Quadribanda è, sarà così. No, è un bel apparato, sì, senz'altro, però a buttarsi soldi così, manco pa' sogno. Se paghi, se faccia pa' riso, è meglio quello che ho visto io. Sì, ce ne sono bellini, ce ne sono anche da 350, 400 euro, 250 euro. Secondo il tipo di apparato stai cercando. Quello che ho visto io, Lincoln 9009, e quello lì è con lo schermo grande e più c'ha lo smitter a parte. Non c'è solo bellini. E c'è il coso, aspetta, quello della IAESU, ci sono anche della IAESU bellini. Non è che costano molto, è una cifra abbastanza abbondabile. Bisogna sapere da qualcuno se è buono o no, ecco cos'è. Perché ha fatto una giarrada, boh. L'ultima volta andavano a Bustore e con la moglie. E vai bene a lavoro. E poi busta, ha fatto una giarrada si deve tornare a casa sua. E non è così. Quando c'è il male che ti separa, ti possono pregare come vogliono. Se invece lì, nel Piemonte, nella Lombardia, vai, non trovi, ecco, poi c'è già più culo. Quello sì, già è così. No, questo che mi ha dato questo qua a me è un genovese. Vedi, ci trovano anche le persone oneste, non c'è dubbio. Infatti. Ma Luca l'ha domandato il nominativo. Mi ha appena detto. Cucucu. Cerboni. Ha detto, dai Romeo. Basta dire, la CDO. Un radioamatore. Che nel coso che c'ho io c'è scritto il coso, il nominativo. Contrario. Cerca di dire, vai. Quello che c'ho, il coso che c'ho io, che mi ha lasciato a me, c'è il nominativo, ma chi? È ben chiaro, era un radioamatore, c'è il nominativo. E quindi? Al prossimo anno, che se tutto andava, ruggiamo e ve lo dopo. Fai il cambio? No, gli do il nominativo. Pensavo di avere l'apparecchio. No, tanto. Lo mio. Anche il tuo gli posso dare. Tanto già, non c'è un valuta. Lo mio non serve a niente. Ora ti ho mandato un paio di foto, Bacchi, mi da mandare a Bacchi, cioè, se ti servono queste radio quando lo sto usando, Bacchi, tanto ce li ho in più. Radio in più c'hai, buonasera che l'ho appena ascoltato. Radio in più, soldi ci vogliono che va. Aspetta un attimo. No, devo far fuori qualcosa qua e poi acquisto. Prima incasso, poi acquisto. E così to. Senta, prima bisogna incassare, poi bisogna comprare. Aspetta che sto guardando le foto. Guardati la foto, guarda, non guardare a me nudo però, No, signor Bacchi. Siete in amore. Amore a prima vista. No, ci ho visto. Finito, vai di leggere, di vedere. No, ho visto, signor Bacchi. Ho visto quello che mi ha mandato Claudio. Quello che ti ha mandato Claudio? Che cosa sono? Un Incon, che vuoi un Incon? No, che vuoi nulla. schifo non ce l'ho. Sì. Ma non quello lì. 7006. Non quello lì, non lo so cosa è, Bacchi. Non lo so. Ma perché radio stai cercando, Bacchi? No, non sto cercando ancora, no, qua. Più avanti sì, però. Vorrei che buttarci un po' di mondezza e mettere qualcosa più seria. Cioè, bisogna andare in continente, no? Fammi sapere. Ce n'è un armadio di radio. C'è mio cugino in continente che fa mercatino, solo però ha avuto un infortunio e da 6 mesi non si può muovere, dunque il mercatino non sta facendo più. Ah, vabbè, se ti interessa qualcosa io ho Icom, Kenwood, Iaesio, di tutti i tipi, base però, io uso solo base, non ho un agio di giocattoli, chi si veicolare sono giocattoli. E tu studiando i genitori? Eia, cioè che va, facciamo il migliore e mi viene un po' cari domani. No, te devono rilassarti assai, barone. Cos'è, Claudio? A non rilassarti molto. No, è venuta mia figlia da Londra e mi faccio tutto in mezzo a ribedi. Quindi mi do a casa piano piano. Vabbè, ogni cosa si fa piano piano, non c'è problema. Va bene, dai, vi lascio al vostro QSO, buon proseguo. Ma chi se hai difficoltà e qualche problema fammi sapere. Radio ne ho quanto ne vogliono tutti. Da fare negozio no, ma insomma da fare mercatino abbastanza. C'ho di tutto e di più. Perché ne avevo tante e quindi parecchie le sto eliminando. Sono nuove, io mondezza non ne l'ho. Perciò se ti serve qualcosa contattami, già c'hai il mio numero di telefono. Ci sono problemi, Claudio, per questo, riusciremo a trovarti. Lo ripeto, per ora no, perché c'è il virus in giro, il virus portafoglio. Ehi, vabbè, quello va e viene, Bacchi, a frutti di lì. Non ti preoccupare, se ti serve qualcosa cercami. A pagare e a morire c'è sempre tempo, non ti preoccupare. Ciao, buona serata a tutte e due, buon fine domenica. Ci sentiamo magari più tardi. Buonasera, ciao Claudio. Ciao Tony. Ciao Claudio, buona serata. Saluti in casa, ci sentiamo. Ciao Gasolino, buona serata. Passo passo più o più. Sono sempre in basso io. Ciao Bacchi, ciao Tore. Purtroppo c'è un antenino piccolino. La mazza. Va bene, vai, ci sentiamo dopo. 9:20 sta arrivando Tony qua. Sono entrato la campagna e devo mettermi a posto tutto. Vai, ci sentiamo dopo, ciao. Ok, d'accordo, Claudio. Ciao, ciao, stammi bene. Ciao, Claudio, ci sentiamo. Tony, a me mi stai arrivando 9:30, quindi non sei con un antennino, però... Niente, ma chi c'è di l'arrivo più pio? Ah, io parlo, Tony, voglio vedere, lo stavo guardando, adesso guardo, è un sodo. Dai, guarda, Bacchi, 1, 2, 3, prova di modulazione. A me interessa la radio più che altro, dai, comunque. Quello è l'importante della frequenza, dai. Aiuto, grazie a poco, abbiamo per forza qua. Benissimo, Tony. 9:10, Radio 5, benissimo. Russo, chi è l'altro che è entrato avanti? Buonasera. Il più piccolo della frequenza, buonasera. Ma piccolo, piccolo, piccolo? Piccolo, così mi dicono. Tutto saturo stai uscendo. Perché sono saturo io. Ma sa che il lineare sul basso è anche saturo e non si capisce nulla. A me la stacca il lineare. Vai, che lineare non c'è. Marco, usato il baccalineare, se lo prendiamo con la baraura. Marco, non c'è il lineare. Tu sì, ti dici come sono io, che non faccio nulla, solo 5 watt della panna e 4 watt sto uscendo con esattezza. Macchine a lineare, non abbiamo lineare qua, Tonino. Tonino di Monza. Ehi, oddì, era un messaggio, un bel. Ma chi, come lo sentivi tu? Con le orecchie mi sentivo sicuramente. Vabbè, comunque buonasera, divertitevela, ciao. Ciao, ti ciao. Ciao, Tino! Non salutare la Rottino tu. Ma Rottino no, ma Tino sì. Poi al 10, Tonino un attimo. Papà, mi credo papà. Tu hai salutato a Rottino. Non è Tottino, è Tarottino. Senta. Andemmo, ve andemmo. Tony, scusa, Tore. E lui? Che ce l'ha portato un attimino? Già voi? Ma che c'è una finestra importante, se sono io che sto sentendo qualcosa nel tuo microfono oppure la mia radio. Sentirai la ventola, sentirai. No, vabbè, io sento un pochino di disturbo, ma leggero. No, che quando schiaccio si attacca la ventola in questo coso qua. Va bene. Dai, vai, faccio palla con il muro, va. Avanti, signor Batti! Ehi, avanti, torna indietro. E allora, cosa è di bello? Vediamo, Tonino si è migliorato ancora, avanti Tonino. Tonino si è andato sul 10. Siamo rimasti soli all'oratore. Ehi, cosa vuoi fare? Meglio soli che male accompagnato. Ma il mulino non si sente, è ancora pompando. Di sicuro sì. Tanto lo telefono non ti risponde, lo chiama il baracchino, non ti risponde. Bisogna andare a carasino con il padre dei capriotti. Vabbè, dai, sai. E per forza, per farsi indietro. Chiamalo e ti risponde, domani. Oh, scusate, ma chi, ma per caso Luca è entrato stasera? No, non ho sentito per niente a Luca. Vabbè, dovevo farmi sentire un collegamento che ha fatto, ma non sono riuscito a sentirlo, va. Niente, non si è affacciato per niente, neanche di splatter l'ho sentito. Ma due giorni che non lo sento. Ma hai collegato qualcosa a te? Perché sai, come c'è un filo che sta toccando con un'altra cosa, capito? Hai un... Come te lo posso spiegare? Quando c'è un qualcosa che sta per fare massa, tocca o non tocca? No, non lo so. Però così non me l'ha fatto... Sono il disturbo. Guarda a vedere adesso. Guarda, è leggero, non so cosa hai, ecco perché te lo sto dicendo. È leggero, però a volte si amplifica, capito? Sicuramente come ti ha fatto risalire duri coso, Luca, in questo coso qua. Già lo so, per quello te l'ho detto. Adesso lo chiamo lo sgrido. Di sicuro sì. No, ma pensavo che era la radio mia, non so se poi Bacchisio lo sente o meno. Ma io non lo sento perché siamo vicini, ma mi va bene. Le ventole sento che girano, sì. No, vabbè, le ventole non è fastidio, quello fa parte della radio. Io intendevo dire, Bacchi, non so se tu mi hai capito, sai quando per dire c'è un filino di una calza che tocca non tocca da quella sorta di fruscio di tipo, capito, a volte lo fa. Una specie di friggitori, oh, ecco, quando due pollici si sfilacciano insieme. Bravo, volevo intendere dire quello, ecco. Non lo saccio. Faccio pure che sia io, mi, come parlo. Avete parlato in due, Tore, dimmi. Ho detto, faccio pure che sia io come parlo. No, allora, la modulazione è bella, chiara, limpida, forte, non c'è niente da dirle. Il fatto consiste quando tu per dire tieni solo la portante inserita senza modulare. Non lo so, domani la Baidrugga va a vedere. Guardo il capo a vedere domani, a vedere se è lui. Guarda domani e dimmi quando lo butti fuori dalla finestra che passo io. No, è un cavetto piccolo, eh. Ma vado a buttare il coso per essere, vedere se è lui. Infatti adesso sarei portato a presto più di prima, adesso ho sentito proprio forte. Ecco, sono con l'altra ora, non so se è cambiato qualcosa. Vediamo un po'. Questa attore è un pochino più selettiva, prova a schiacciare. Qui c'è il ronzio, c'è una ventola oppure il ronzio, vediamo un po'. Ma no, va bene. No, io ce l'ho un pochino di vento, vabbè, ho anche un po' di bagaglio familiare, quindi non è che... però è più selettiva questa di ascolto. Io. Più pulita siamo così. Avanti, Tore. Vediamo un po' adesso se c'è ancora il ronzio. Il ronzio non c'è, ma c'è sei tu che fai il ronzio. Io non mi soccupo a fare un ronzio. Catta. Andemmo. guarda a vedere, Tino, se è così. Sì, per me sì, tieni 3 secondi la portante senza parlare. Sì, per me c'è ancora. C'è, il ronzio c'è sempre. Quel friggitorio c'è. Ma bisogna controllare le connessioni più che altro. Non lo so, qualcosa allora c'ha nel cavetto. Bisogna che me lo controlli bene domani mattina. Sì, è io. Vediamo se da Tino ho migliorato qualcosa. Tino, migliorato? Sì, migliorato. Qua sei 9.25 a bomba. E sei in buca. No, ho cambiato radio, ho capito. Questo è un multimodem 3, vecchia generazione. Va bene, Bacchi, va bene. No, siccome so che la stessa cosa vorrei prendere io, quella che ha preso Ottore e Luca, però volevo sentire prima come andava, capito? Mi stava dicendo che doveva fare delle connessioni, e non so se te l'ha fatta lui o me, credo di sì comunque. Luca non si sente, deve essere fuori Sassari. Sei andato a prendersi un po' di aria fresca? Mi ha dato lui che... Guarda per vedere adesso se... soffa ancora. Allora, Tore, a me mi segna che non è stabile la tua portante, quindi quando il DB mi segna su e giù sta ricevendo qualche scarica, capito? Adesso vi mando anche il video a Luca, così glielo faccio vedere se si sente. Non lo so se dipende da questo cavetto o magari, Vedi, hai qualche saldatura malfatta, Tore. E come ti muovi, frega, sembra tante mosche. Vediamo, adesso le mando il video, vediamo cosa mi può dire, se mi risponde. Poi dormito, ho interrato facendo il fuoco. E noi passiamo con la pompa e lo spegniamo. Sarà fumo. Tore, guarda, si vede il fumo a quelle parti. No, non se ne vede fumo. Non lo vedo perché c'è un palazzo davanti io, quindi non si vede. E adesso qualcosa torna a migliorare. Un po' è migliorato, si sente di meno scariche. Ma il cavetto tu l'hai fatto? No, Luca me l'ha fatto, me lo sono fatto fare da lui perché non riuscivo a saldare io. No, adesso l'ho spostato, il cavetto ho spostato. Si è andato un po' meglio, l'ultimo passaggio solo, però l'altro passaggio era pulito. Oppure prova a fare una prova, giusto, magari non succede niente, però te dovresti accorgere anche tu. Quando schiacci la portante, non parlare e prova a muovere il cavetto, però nello stesso tempo prova a guardare la tua radio se dà dei picchi positivi o meno. Ma qua non mi dà nulla, non mi dà. Sì, ma almeno la soglia di ricezione mi segna che stai dando scariche, ecco perché te l'ho detto, insomma, ma... Però vabbè, è una cosa che si può regolare tranquillamente. Sì, sicuramente, va, adesso sta andando bene, Sai, buttaci tutto dalla finestra, apri la finestra e butta via tutto, che io posso raccoglierlo, così non c'hai niente in mezzo ai piedi. Sì, andiamo. Andiamo. Vediamo se c'è Marino, vieni in ascolto. Marino, tu hai fatto bugie sul pizzino. E io. Anda bene, vero, to. Aspetta un attimino di quel ricco, apri un bicchiere d'acqua. Accoppiato hai. Vediamo un attimino, sono riuscito a fare un video, però io vediamo un attimino il caso. Ecco qua. Vediamo adesso. Tore, guarda, ti ho fatto una registrazione poc'anzi, ascolta le tue parole, aspetta. Sì, ci sono delle scaricucce, ci sono delle piccole scaricucce. Non lo so, o dipende da algo o era radio, boh. No, io credo che, senza farvi accentuizzare, sembra normale senza quella scatola, però sì che non lo faccia col rumore. No, non lo so da qualcosa, dipende. La ventola sta funzionando, boh. Adesso vedo un pochino perché non ho visto ancora il video Luca, però se non sia online. Sicuramente se ne sarà andato al mare. Non credo. Comunque, sono entrato per così, giusto per avvisarti per l'emissione a radio. E domani guardo a vedere come rientro domani mattina. Controllo a vedere se c'è qualche cosa. Va bene. Ma mi sto allontanando dalla radio, dai. Ci sentiamo, saluto. Ok, ciao Tino, ci sentiamo alle prossime. Ti prendi Giorbacchi. Via, ciao. Saluto Giorbacchi se quando rientra. Ok. Ci sentiamo. Attenzione signor Bacchisio! Signor Bacchisio! Va bene, sole, noi sono sulla signora Serena. Ehi, già sono qua! Sono ritornato! Ehi! Ho detto che sono qua anch'io! Sono qua! Chi è che vuole entrare avanti? Marmolino sei tu? Nulla, non si affaccia nessuno stasera. Sì, non si affaccia nessuno. Sa che domani questo io lo apro e gli controllo la ventola per se sta andando quando è acceso. Ciabacchino, sei uscito? Secondo me metti il microfono, devi parlare vicino. Andiamo. È un microfono internazionale questo. È antiladro. Se si rubano questa radio, non riescono a parlare perché non sanno il segreto. Ecco. Anche questa ci voleva. È fatta apposta, Tore, è fatta apposta. Come il caso con l'antifurto. Avanti che volevo entrare, sento una sola modulazione. Poi la splatter è arrivata dal mondazzaio. Che gli splatter ci sono, beh? No, non le sentono. Con questo, io con questo sono pulito. Sì, a far così bisogna fare. E questo è sempre quello da buttare. Sì, domani mattina, come rientro dalla commissione, che devo fare? Rientro e ne tolgo il tappo e gli controllo a vedere se sta andando la ventola. Allora c'è anche quello, che si inceppi e non ti dà quel casotto. No, anche un po' garedo buttendi. E allora non ti rendi. No, quando sto schiacciando si sente la ventola che sta andando. No, e quando è in recensione che non so se sta andando. Quello è, bisogna vedere, uno e l'altro. No, quando schiaccio la sento che va. In recensione non lo so se sta andando. E domani mattina me lo controllo. È una cavolata c'è da toccare. Sicuramente sì, sarà una cavolata proprio da toccare. Se no non lo porti a coso, all'autoparco, c'è il rullo compressore, lo metti davanti, se controlla già miro. Sì, no, ma c'è qualche cosa che sicuramente no vorrà toccata. Ho messo il coso, qualche tasto bisogna toccare. Ma è qualcosa mollata, ho visto, qualche vite arrentata nel coso, lì all'interno, e vibra e fa casotto. Domani con calma l'apri, piano piano. Parla a me che sta a posto io, dalla me, buonasera comunque. Buonasera anche a signor Bacchisi. Oh, buonasera Gian Maria, ben ascoltato. E fa così Gian Maria, porta la tua a riparare. Sotto il rullo compressore del comune. Avanti c'è anche un altro Tore che ha bussato, riprendi. Bello. Buonasera signor Gian Maria. ce l'ho a te, me ne ce ne due da bui. Beh, almeno hai due. Abbassa per appena il macchinine, otto, una prova così. Aspetta un attimino allora. Luca deve essere rientrato. Aspetta. Ecco, adesso l'ho messo a 5, l'ho messo. Aspetta, dai che la forza senza parlare. Ma frigge appena, ma poca roba, Se magari ce la abbassa ancora appena, non si sentirà più. Sì, vabbè, là. Domani gli facciamo il coso, gli facciamo l'operazione. D'accordo, fai pure. E allora si al bacchì, oggi c'è il sei campagna. Sì, ti hanno chiamato, Giovanni, riprendi. E chi è, chi è? Allora esplatere, mi è entrato da Luca, ha detto c'è Gian Maria, forse lo stai disturbando. Chi? Luca deve essere entrato. Oh. Ma Luca del Monte? No, deve essere Luca di qua, perché è il mento degli splatter. Ah boh, vabbè, chiudo, va. Ci sentiamo, va, che buon proseguimento in famiglia. Ciao to. Io ciao tu, Giovanni, buona serata, sei ricambiato i saluti, a domani. E se continua così anch'io devo chiudere baracca e baracchino, a sentire la brutta non mi piace. Avanti, Tore. Perché sbatteri, senti, Bacchi? Luca mi entra come sei qua. Entra pulito. Allora deve essere nel 10, deve essere. Solo lui entra, adesso lo sta parlando. Quando non parla va bene, ma quando parla, zero. Questi qua sono un pochettino più forti e entra. Copre anche a te, guarda un po', eh. E mi dà paburo, non andiamo d'accordo allora. Forte. E poi siamo vicini, 100 metri. Con la potenza che sto usando, minimo sto usando 10 watt. Sì, no, di più, ce l'ho io, 20 watt. E niente, mi stai dicendo tu, se no mi sono i gusti. Sì, con il microfono, ma chi è a coso gli arriva, ma dice, con i picchi arriva a 50. Buono, è buono allora. E così fa, a me fa. Non ho capito niente, ha parlato Luca. Andiamo. Luca, lascia stare, va. Chiudi! E deve essere con Tino. Sì, mio, è sul 10, o è solo sul 40. Infatti, sono quel canale che vanno loro. E io lo so in quel canale, mi 27600. Sul 10 sono, otto. Sul 10 sono. Perché di solito va a 27600, va. No, sul 10 sono. Tino e lui. Allora, è vicino, per quello che lo senti. Aspetta, comparati uno di chi? Lasciami fare un po' di soldi prima, so. Devo fare un po' di denaro. Ma che con chi se no non ti entra nessuno? Sì, anche col tempo tu dovevi entrare. Neanche col tempo tu entra, no? Questo non c'ha filtri. Questo è senza filtri, è nato così, così si stimoli. Infatti. Aspetta un attimino che mi ha mandato il coso Luca. Cosa ha mandato? Non so, ho ricevuto una cosa da Luca. Va bene allora. Amore a prima vista, to. Ma chi? Ho letto qualcosa, non è Luca. È Tino che ti sta sbratterando. Ma Tino è? Sì, non è Luca. Ho capito. E allora sta pompando, tutto pompare. Di sicuro sì. Sicuro sì. Va bene, meno, to. Prendiamo le cose come vengono. Pazienza. Un po' di pazienza, vivo. Papo di via, pazienza e culo primo. Andiamo. Dai. Così. Gli splatter sono come i dolori, chi ci lascia li tiene. Sì, vabbè. Andiamo bene. Aspetta che ce n'è un altro. Signor Bacchi, io ti devo lasciare, che questo coso è troppo potente, non mi fido. Ci sentiamo alle prossime. A domani, saluti in casa, a sentirci. Ciao Tone, buona serata ancora. Perché io me ne vado giù. Tanto subito ora di merendero. Va bene, a domani, ciao ciao. Ok, ciao Bacchi. Epa, ciao Maria, vi siete? Marino, sì. Marino.